Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail, un abuso al giorno, @radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. E proprio su questo blog, nelle settimane scorse, ho affrontato in maniera, come dire, critica e continua, con ben tre servizi, il caso che abbiamo anche affrontato qui in radio alcune settimane fa delle occupazioni abusive, degli immobili abusivi costruiti negli anni alla Lamezia Terme, che hanno duramente contrapposto da una parte la legalità e dall'altra parte l'illegalità. Abbiamo sentito la voce di politici, del procuratore capo della Repubblica di Lamezia Terme, sul fatto che si è stati costretti a chiamare il genio guastatori dell'esercito da Palermo, che è arrivato a Lamezia per cominciare a buttare giù alcuni immobili abusivi fuori da ogni regola, perché non erano stati neppure condonati. Abbiamo preso le parti della legalità, abbiamo criticato anche la decisione di chi voleva salvare l'abusivismo, facendo anche una distinzione fra abusivismo d'urgenza, diciamo così, di speculazione, e abusivismo di necessità. Abbiamo dato la parola a tutti democraticamente, visto che questo mestiere lo faccio proprio perché credo nel valore della dialettica. Mancava soltanto un personaggio a raccontare la versione, e il personaggio forse più significativo, perché è proprio il sindaco di Lamezia, Gianni Speranza. Buongiorno Speranza. Buongiorno a lei. Io intanto direi, bene bene grazie, io intanto direi di partire, a lei non glielo chiedo perché probabilmente qualche problemino ce l'ha in questo momento, ecco, ma le volevo chiedere, Speranza, qual è la situazione attuale di degli immobili abusivi? Si continua a buttarli giù oppure c'è stata una pausa di riflessione? A lei la parola, Speranza. Guardi, c'è stata un'interruzione nelle settimane scorse per motivi tecnici e anche perché, diciamo così, erano 7 casi che erano stati stabiliti. Di questi 7 casi si è abbattuto un ufficio, un capannone e un rustico. Adesso sono previsti altri casi di demolizione. Su 2 case invece abitate da famiglie c'è stata venerdì scorso una delibera del Consiglio Comunale, proprio in maniera specifica, 2 delibere su 2 casi. In queste delibere, come è avvenuto in tante parti d'Italia, si è dichiarato il prevalente interesse pubblico a non demolire queste 2 case, visto che erano le uniche prime case di 2 famiglie a reddito basso, erano anche case abbastanza piccole, contenute nella dimensione, e si è deciso da parte del Consiglio Comunale che la delibera sarà esecutiva se entro 120 giorni sarà visto che da un punto di vista della sismicità, della staticità, c'è un'idoneità. E naturalmente la delibera esecutiva, se la magistratura accoglie questa tesi, perché queste 2 delibere del Consiglio Comunale sono naturalmente sottoposte all'applicazione o alla disapplicazione da parte della magistratura. Un secondo, Speranza, perché quello che lei dice è molto, molto importante. Allora vorrei fare il punto meglio su questo. Cioè lei dice, vanno avanti le demolizioni. Sì. Noi però per 2 case abitate, quindi laddove ci sono delle persone che ci vivono, sì, abbiamo deciso di acquisirle al patrimonio comunale. E... No, mi perdoni. Al patrimonio comunale erano già acquisite, cioè tutti gli immobili abusivi e tutte le aree su cui questi immobili insistono sono già patrimonio comunale. Su queste 2 case abbiamo fatto come Consiglio Comunale la deliberazione di prevalente interesse pubblico, che consente, se la magistratura è d'accordo, a non demolire ma un altro uso. Scusi, come possono essere di proprietà comunale delle case che sono state costruite da Mario Bianchi piuttosto che Giorgio Rossi? Perdoni, è così, nel senso che, visto che lei sicuramente non siamo abusivi, se il giornalista Roberto Galullo o se il professore Gianni Speranza costruiscono una casa abusiva, dal momento in cui questo viene rilevato, la proprietà non è più né di Galullo né di Speranza, è già comunale. Quindi, quindi cioè, lei ci dice che hanno perso... E intanto si può demolire proprio perché la proprietà non è più di Galullo e di Gianni Speranza, ma è comunale. Quindi è in buona sostanza hanno perso, il diritto di proprietà già con la dichiarazione di abusivismo, in buona sostanza. Esatto, bene, come dice lei. Bene, allora, questo è molto molto importante. Allora, fatto questo punto, il successivo è che se entro 120 giorni ci dovesse essere la dichiarazione di staticità, insomma tutte le prove che devono essere fatte, si passa appunto, diventano affittuari in buona sostanza queste persone. Però, ecco, se la magistratura dà il suo ok, può spiegare un po' meglio questo passaggio? Il Consiglio Comunale dichiara il prevalente interesse pubblico e quindi chiede, proprio perché c'è questo interesse pubblico, di non demolirla ma di poter fare un altro uso. Subordinando tutta questa cosa, a che cosa? Al fatto che ci deve essere la sismicità, la strategicità, che non ci devono essere altri vincoli urbanistici. Certo. Se c'è una casa... Se c'è una casa che è costruita, che ne so, vicino a un fiume, se è costruita in un'area che c'è un interesse archeologico, un interesse paesaggistico, un vincolo ambientale, non esiste proprio che ci possa essere il prevalente interesse pubblico. C'è il prevalente interesse pubblico, se la casa è piccola, se è una sola casa per tutto il nucleo familiare, perché il nucleo familiare non ha altri posti dove andare. Se non ci sono vincoli urbanistici, se c'è la sismicità, se c'è una consistenza al rischio sismico e al rischio statico, se c'è tutto questo, proprio perché siamo una città con grande tensione abitativa, siamo una città che ha una carenza di case, lo stesso CIPE ha riconosciuto che la Mezzia è una città ad alta tensione abitativa. Su questo presupposto noi chiediamo alla magistratura, per queste case e per altre, se la magistratura è d'accordo a non demolire, ma poter fare diventare i costruttori abusivi, la famiglia, i costruttori abusivi, affittuari. Ecco, allora io direi di passare ad altro argomento, ovviamente affine a quello di cui stiamo trattando, vale a dire il fatto che la politica si è spaccata. E anche la critica si è spaccata. Io non ho fatto mistero ai miei radioascoltatori di, come dire, di schierarmi con coloro i quali ritengono che non bisogna fare distinzione tra abusivismo di necessità e abusivismo d'urgenza. Insomma, si sono violate le leggi. Non vedo perché, le faccio una domanda provocatoria, sindaco, il Consiglio Comunale debba salvarsi queste persone. Posso essere ancora più crudo e duro, dando tutta la mia solidarietà umana a queste persone che vivono, ma perché io come cittadino debbo salvare chi ha fatto il furbo? Io francamente lo dico come giornalista, come cittadino, sono stufo di furbizie. Allora, perché il Consiglio Comunale ha salvato queste famiglie? E probabilmente, ecco, mi risponda anche a quest'altra domanda, il futuro Consiglio Comunale magari si troverà a dover salvare altre decine e decine, perché ricordiamolo, Speranza, le demolizioni in tutto dovrebbero essere 400, ecco, non tutte case, non tutte case, ovviamente. Noi ragioniamo su 7 demolizioni fissate e probabilmente altre 4-5 nei prossimi mesi. Su questo stiamo ragionando nei rapporti tra noi e la magistratura di Lamezia. Ah, bene. Ecco, però lei dice una cosa sacrosanta. Lei, Galullo, è scocciato delle furbizie. Io non solo sono scocciatissimo delle furbizie, ma non ne posso più di apparire agli occhi del sistema di potere di questa città come il responsabile delle demolizioni delle persone. Se lei vivesse qua, lei vedrebbe con gli occhi come tutti i furbi, i politici furbi di questa città, gli imprenditori furbi, quelli che si sono arricchiti, i professionisti dell'abusivismo, quelli che si sono arricchiti sull'abusivismo, mi hanno indicato come bersaglio da parte... Questo è devastante, ovviamente dovrebbero vergognarsi queste persone, perché... Ma cominciamo a farli vergognare, certo, perché queste persone, certo, non sono persone che non solo c'hanno il colletto super bianco, ha capito Galullo? Sì, non sì. Sono persone che si portano l'anello al naso o che vengono, sono persone importantissime in questa città, sono persone che dominano i salotti cittadini e che si sono arricchiti con l'abusivismo e mi fanno apparire come quello che adesso, siccome ci sono io, mi hanno fatto apparire come un professionista dell'antimafia, e visto che ci sono io, adesso se non ci fossi stato io, la magistratura, i tribunali della Repubblica Italiana non avrebbero fatto queste sentenze. Si rende conto delle sciocchezze? No, ma infatti queste sono sciocchezze, e per chi volesse rendersi conto di quante sciocchezze sono state raccontate, io vi invito ad andare sul mio blog, perché ho intervistato anche il sindaco Gianni Speranza, che ringrazio, e abbiamo capito che in questo momento il comune di Lamezia sta lavorando d'intesa con la magistratura su questi casi, pochi, limitati, altri ce ne saranno, ma il discorso è rimandato, ma noi di Radio 24 continueremo a seguire questo caso, e anche personalmente come giornalista del Sole 24 Ore. Grazie al sindaco Speranza, grazie in regia Carmelo Lauricella, in studio di Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento per una nuova puntata a domani. Grazie.